questo generatore ecologico e portatile? Perché è un prodotto a tutti gli effetti. Sì, tutti gli effetti è un prodotto che siamo in corso di testing, siamo nella cosiddetta fase di beta testing, cioè stiamo dando in mano i primi utilizzatori per verificarne la rispondenza a quelli requisiti di progetto. La prima versione è alimentata, come giustamente dicevate voi, nella presentazione, con sistemi a idrui metallici, cioè spugne porose metalliche che trattengono al loro interno una quantità importante di idrogeno. Attualmente stiamo lavorando alla cosiddetta quarta generazione, dove il sistema sarà alimentato a un combustibile idrogeno solido di nostra concezione. Ed è questo il brevetto, è uno dei brevetti internazionali che avete? E questo è uno dei principali brevetti che abbiamo sviluppato insieme al centro di ricerca di Roma, Enea Casaccia. Si tratta di un combustibile di nuova concezione basato su idruri chimici e additivato opportunamente per rendere sicuro, inerte, il combustibile nella fase di trasporto, impatto zero durante l'utilizzo e in grado di generare la quantità di energia necessaria per alimentare fino a 300 watt. Ma è reperibile questa fonte di alimentazione? È costosa? Qual è, insomma, la difficoltà tecnologica del portare una simile tecnologia? Sì. Allora, noi diciamo che costruiamo la cella a combustibile, come dice il termine, intorno al combustibile, quindi la nostra principale preoccupazione è stata dalle origini a concepire un mezzo di accumulo che fosse aderente a quelli che furono i requisiti dell'applicazione, cioè che contenga tanta energia in poco spazio e volume, che sia sufficientemente sicuro nel trasporto, magari anche aereo in futuro, e che consenta un utilizzo in modo tale da produrre la quantità di idrogeno sufficiente a produrre appunto l'energia richiesta dal nostro generatore.